Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Le ho contate, sono 8, un po' velocemente, forse anche 9. Mai Mebius ha risposto a così tante domande. È l'ultima puntata dell'anno, quindi volevamo proprio esagerare. Le vostre domande, rispondiamo a tutte, un attimo di pazienza, poi iniziamo adesso i titoli, anzi il titolo, e poi cominceremo dal sangue. Poiché non sappiamo se le tigri facciano le fusa e perché i galli cantino all'alba, almeno quale sia la caldaia che scalda il nostro sangue, dovremmo saperlo. Dopodiché non è trascurabile il peso di una goccia d'acqua che, se cade in una pozzanghera, genera delle mezze bolle. E se ti trovi al Polo Sud, come va giù l'acqua nei lavandini? Oggi Mebius risponde a un sacco di vostre domande. Sul sangue, ho detto sì, poco fa. Esatto, ci arriva da Enzo e in effetti si pone un quesito piuttosto articolato. Sentiamo. La circolazione sanguigna riscalda il corpo umano. Viene da pensare a qualcosa come nei nostri appartamenti, dove l'acqua calda circola e scalda tutte le stanze. Ma nelle nostre case c'è una centralina, una caldaia di riscaldamento. Nel corpo umano non riesco a trovare niente di simile. Come funziona? Dove e come si riscalda il sangue? Io starei attento, perché qua con queste uscite energetiche non vorrei che poi gli diamo una motivazione, ce la tassano. Esatto. Ci arriva la bolletta. No, dai, andiamo da un fisiologo, un docente di fisiologia umana dell'Università degli Studi di Milano. Buonasera e benvenuto a Paolo Cavallari. Buonasera. Buonasera Cavallari. Ecco, dobbiamo dare una risposta, delle precisazioni abbastanza fondamentali al nostro ascoltatore Enzo. Certo, la questione è abbastanza semplice. L'idea di una caldaia che manda in giro del liquido caldo a portare calore al corpo è perfetta, nel senso che noi siamo proprio fatti così. Diciamo che c'è una cooperazione tra il sistema nervoso centrale, che regola il tutto come se fosse un termostato della caldaia, e il sistema circolatorio, che si occupa invece di distribuire, come se fosse un impianto idraulico, del liquido ai termosifoni. A tutte le stanze. Quindi è proprio così. Sì, sì, sì, sì, esattamente. E la centralina è in una zona del cervello che si chiama ipotalamo, e c'è un'area che ha un nome un po' strano, si chiama preottica, perché sta sopra al nervo ottico, e lì c'è il sensore di calore, quindi ci sono delle cellule che si occupano di sentire quanto è caldo il sangue e di regolare, esattamente come in una caldaia, la temperatura prefissata, che nel nostro caso sono 37 gradi. Quindi c'è un meccanismo che, diciamo, tradizionalmente, milioni di anni, ha deciso che dobbiamo avere quei 36 gradi. Esattamente, perché noi non riusciamo a sopravvivere a temperature che sono temperature corporee, ovviamente, che sorpassano i 42, 43, 44 gradi, o nel caso di temperature più basse, al di sotto dei 35, incomincia a scricchiolare il sistema. Quindi... Beh, che poi lo sappiamo, perché appena noi avvertiamo un paio, come noi diciamo, di linee di febbre, cioè un paio di gradi superiori a questi 37, già non stiamo bene, insomma, avvertiamo che c'è qualcosa che non va. Esattamente, ma lì c'è anche una cosa curiosa che poi posso raccontarle. Comunque, questa centralina è quella che dice ci devono essere 37 gradi, allora ci vuole anche qualche cosa per produrre il calore, e noi produciamo calore bruciando quello che mangiamo, sostanzialmente. Quella è l'origine principale il metano, il combustibile. Esatto. Diciamo. Combustibile. Qui mi viene da chiederle al volo, ecco, per esempio, quando abbiamo quei casi di scioperi della fame, cioè di denutrizione forte, lì cosa succede? La temperatura scende molto? No, viene mantenuta. Viene mantenuta, però c'è meno combustibile in giro, quindi il sistema va un po' in crisi. Sì, il sistema va in crisi, certamente. Sì, se non sbaglio, adesso vagamente ricordo, c'è questo fatto pericoloso che il corpo si mangia, per esempio, i grassi, no? Si mangia tutto. Sì, ma poi si mangia anche il muscolo. Si mangia il muscolo, un esatto. Po' di tempo, sì. Ci racconti quella cosa curiosa che voleva dire, perché poi ho un'altra domandina per lei. Sì, le cose curiose sono due. Uno, che siamo anche fatti in maniera energeticamente ecologica, diciamo. Sostenibile. Non vogliamo perdere troppo calore, oppure ogni tanto lo dobbiamo perdere perché fa caldo, e allora possiamo regolare delle valvole che sono nella periferia periferie, esattamente come nelle valvole dei termosifoni, la manopolina certo. del termosifone, e quello lo fa sempre il sistema nervoso centrale, perché quando si accorge che la temperatura è troppo alta rispetto a una temperatura esterna, oppure sta crescendo la temperatura interna, o al contrario, regola il circuito cutaneo ematico, e in quel modo noi possiamo termodisperdere oppure trattenere calore. Sudiamo. E sudiamo questo, o chiudiamo i pori. Esatto. Esattamente, esattamente, facciamo questo. Cosa divertente della febbre invece è che la febbre è una condizione di perfezione, nonostante noi possiamo immaginare questo come uno stato di malattia. È semplicemente la centralina che viene portata a un valore di temperatura più alto, perché in quel momento è necessario così, perché magari c'è un'infezione batterica e quindi la dobbiamo combattere. La febbre non è una cosa cattiva, la febbre è una cosa buona dal punto di vista medico. Ecco, chi fosse a casa con la febbre può ringraziare, insomma. Non è contento. No, no, però è un errore a tirarci giù. È un errore abbassare la febbre, certo, è un errore. Come allora, dice mia mamma, la febbre va lasciata sfogare, giusto? Esattamente, esattamente così. E allora l'ipotalamo in quel caso aumenta il suo punto di calore da 37 magari a 39, ed è il motivo per cui noi abbiamo i brividi, perché il brivido è un altro modo per produrre calore, e i brividi che ci annunciano l'arrivo della febbre non sono nient'altro che un incremento di calore che porterà pian pianino la temperatura a 39. Perché si contraggono i muscoli? Perché si contraggono involontariamente i muscoli, sì. Però quando invece con malattie come la malaria si raggiungono i 40-41 gradi, lì non c'è più un sistema che riesce a controllare la temperatura? Questo perché nel caso dei batteri o nel caso dei virus sono loro che sostengono la temperatura, mandano in giro delle sostanze che si chiamano pirogeni e che tengono elevata la temperatura. Quindi l'unico modo è tentare di disperdere il più possibile e sudare, e quindi tenersi più scoperti possibile, anche se sembra paradossale. Di solito le mamme soprattutto verso i bambini esattamente l'opposto. Una volta si faceva questa roba di immergere la gente nel ghiaccio, però lì si eccedeva, no? Questo è sicuramente un metodo estremamente utile, perché le modalità di dispersione del calore sono, come ricordava lei, il sudore e in particolare l'evaporazione del sudore. Poi ci sono altre tre modalità di dispersione. Una è quella per contatto con fluidi, quindi l'aria o i liquidi. E allora il bagno caldo, il bagno freddo sono sicuramente dei metodi che vanno molto bene, soprattutto perché questi metodi dipendono dalla superficie del corpo che viene a contatto con i fluidi. Quindi più si è immersi meglio è. Normalmente noi siamo immersi nell'aria e quindi disperdiamo un po' verso l'aria, ma l'acqua, che ha una buona conducibilità termica, ci permette di perdere facilmente calore o di acquisirne necessario. Sì, ma io poco fa le dicevo questa cosa dei bagni gelidi nel Settecento, ma come un problema, mentre invece lei dice che è un sistema che... No, ha un razionale. Questo. Ha un razionale? Sì, assolutamente. No, dico, non erano eccessivi, ha un razionale, no, funziona. No, ha un razionale, perché aumenta la superficie di contatto con il fluido e permette a quel sistema, che è poco efficiente normalmente, a diventare molto più efficiente. Quindi se si deve perdere velocemente il calore o aumentare rapidamente il calore, quello è un ottimo metodo. Non era una tortura medievale. No, e l'ultima curiosità che avevo da chiederle è: in tutto questo il cuore che ruolo ha? Tutto questo, il cuore è semplicemente una pompa che fa circolare il sangue. È la pompa idraulica, insomma. Sì, assolutamente. Non ha ruolo nella regolazione della temperatura, e semplicemente sostiene una buona circolazione di questo liquido che è il sangue, che trasporta calore con sé. È la pompa che abbiamo nel condominio per mandare in giro. Per mandare in giro nei vari caloriferi. Esattamente. Non mi pare che abbiamo detto niente di tassabile, però insomma di questi tempi. Sull'energia bisogna stare attenti. Comunque abbiamo capito che il sistema è tutto ecosostenibile, insomma. Non abbiamo emissioni di CO2, nulla nell'aria. Respiriamo, no, però. Abbiamo emissioni di CO2, perché quando respiriamo emettiamo molta CO2. Quando abbiamo la febbre, tendenzialmente c'è una variazione della ventilazione, e quindi forse lì magari una tassa ci. Lì ci vorrebbe. Prima o poi arriverà. Va bene, grazie mille, Cavallari. Buon anno. Grazie a voi. Buon anno e auguri per buona il lavoro. Serata. Ma io in realtà non mi sono mai svegliato all'alba. Ti è capitato? Beh, perché tu non abiti in campagna, infatti dopo lo sentiremo. Tu un po'. Io li ho sentiti parecchie volte, mi è capitato anche in montagna di sentirli, e in effetti si svegliano veramente presto. 4 del mattino. Infatti. Però qui non mi è chiaro, vabbè, adesso entriamo. No, ma non è chiaro neanche a Giulio, infatti sentiamo. Nel periodo estivo mi capita di dormire con le finestre aperte, ma alle 4 del mattino i galli si scatenano. Ora, perché inizia uno e tutti gli altri rispondono anche a centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro? E perché dopo 10 minuti il silenzio? Chissà che cavolo si saranno detti poi. Perché poi alle 4 del mattino? Grazie. Ma le domande sono molteplici, sì, una dentro l'altra. È molto complessa, quindi va bene, andiamo dal nostro esperto, lo facciamo tornare, è già stato nostro ospite, Piero Papic Genovesi, bentornato. Ciao, buonasera a voi. Zoologo dell'ISPRA di Roma, ecco, a te la parola, che cosa rispondiamo al nostro Giulio? Beh, il gallo, adesso noi lo sentiamo di più l'estate, capita anche a me quando passo qualche giorno di vacanza in estate in Toscana, perché siamo di più dove ci sono i galli e perché teniamo le finestre aperte. In realtà il picco di attività e di canto è più in primavera, perché è legato alla riproduzione. I maschi delle galline, diciamo, utilizzano il canto come un elemento di affermazione territoriale. Mm. Ce l'hanno anche i loro progenitori, l'antico gallo rosso della giungla, ed è un fenomeno abbastanza diffuso tra molte specie di uccelli. Quindi loro, con questo richiamo, fanno sentire che loro stanno in un certo territorio e che quindi se qualche altro maschio si vuole avvicinare dovrà combattere. Parallelamente fanno sentire alle femmine che c'è lì un bel maschio aitante con un bel vocione, quindi anche forte, e quindi le attraggono. E il fatto che si risponda una vicenda, come dice il nostro Giulio, nel senso parte uno e poi partono gli altri, è una sorta di sfida? Beh, è una risposta territoriale, insomma, questo lo fanno molti animali che con il loro richiamo, a volte anche con altri comportamenti, affermano la loro territorialità. In questo modo stimolano gli altri, allora io sto qua, insomma, tutti si affermano, fanno vedere ai loro possibili contendenti che ci sono. Il fatto dell'orario, che è pure interessante, ecco, sì. Perché noi diciamo sempre il gallo canta all'alba, ora in realtà la gran parte dell'attività di molti animali è legata alla fascia mattutina, insomma, degli animali più diurni come gran parte degli uccelli. Però è stato fatto uno studio curioso da alcuni ricercatori giapponesi che hanno cambiato i cicli di luce e notte artificialmente ai galli. Li hanno ingannati? Hanno ingannato i galli, e però hanno visto che i galli tendevano a mantenere un comportamento legato a un orologio biologico non influenzato dal ciclo luce-giorno. Quindi loro di fatto hanno un picco di canto che è prima dell'alba, e anche se uno gli modifica l'alba tendono a mantenere quel picco, quindi hanno un bello orologio interno, anche per molti mesi riescono a mantenere questo regolamento. Cioè, questo vorrebbe dire che ogni tot ore loro fanno un canto riproduttivo. Esatto, diciamo nel periodo giù, diciamo, loro in realtà i galli cantano anche durante il giorno, il picco avviene in quella fascia oraria anche dopo mesi di modifica del ciclo giorno-luce, cioè luce-notte, luce-buio. I galli mantenevano un ciclo orario che era attorno alle 23-24 ore, quindi riuscivano a mantenere un buon orologio biologico. Ma quindi adesso la butto lì, nell'emisfero australe, nell'emisfero boreale cantano diverso? Certo, diciamo, sono due gli elementi, uno è la stagionalità, per cui gli animali dall'altra parte del mondo hanno un'altra primavera, un'altra estate, okay. Hanno dei picchi di attività in altri periodi, e poi ovviamente sono anche legati al ciclo appunto giorno-notte, quindi se uno sposta un animale da una parte all'altra ci metterà un po', ma si adatta al nuovo contesto temporale e delle stagioni. Il jet lag del canto del gallo. Ma però voglio dire, in pieno agosto invece lì non c'è più la stagione riproduttiva, ma loro cantano lo stesso. Sì, no, infatti, come dicevo, è legato anche ad un comportamento riproduttivo, però in realtà il gallo canta durante tutto l'anno, di più in primavera fino all'estate, quindi diciamo il picco noi lo sentiamo ad agosto, appunto, almeno io quando vado in Toscana a trovare il 15 agosto lo sento di più, perché a Roma non mi capita. Perché poi abbiamo le finestre aperte, ecco, esatto, forse. Si lasciano le finestre aperte. Ma a Roma non è pieno di galli anche. No, ci sono molti galli, no? Pappagalli. No, però giustamente Giulio diceva: che cavolo si saranno detti? Quindi sfidandosi, forse non sarebbe carino tradurre quello che si dicono. Che dici? questo diciamo, evitiamo di entrare nel gallesco puro, che potremmo trovarci di fronte a termini che non vanno pronunciati. Ecco. Però sì, loro dicono sostanzialmente due cose: questa è casa mia, non provate a avvicinarvi, e parallelamente dicono alle femmine: senti quanto sono forte e robusto e accetta il mio appuntamento. Però cosa succede? Che attacca uno e anche gli altri, che avrebbero attaccato pure loro, però sentono... E beh, se uno ti sfida tu rispondi. No. Ma c'è uno che... Spesso un gioco divertente in campagna, che è quando sento i cuculi, imito il canto del cuculo e loro mi rispondono, nel senso che nei comportamenti territoriali degli uccelli è un po' una sfida quella di sentire un canto, e quindi tu rispondi per far sentire: beh sì, quello è il tuo territorio, questo è il mio, tu sei forte ma anch'io sono bello forte, insomma. E quindi insomma, il fatto che si rispondano è un classico, tu dici, spiegabile, insomma. Certo. Allora continuiamo, direi, se siete d'accordo, a raccontare un pochino quelli che sono i comportamenti, le peculiarità dei singoli animali, perché ci è arrivata un'altra domanda, sempre di carattere piuttosto etologico, zoologico, da Maria, sentiamola. Ma le tigri fanno le fusa come i gatti? Grazie. La domanda potrebbe essere anche integrata da quest'altra, cioè: c'è qualcuno in vita che, avendo tentato, perché i gattoni fanno le fusa quando li gratti, che è in grado di raccontare che fanno le fusa? Perché magari la tigre fa anche le fusa, cioè, mentre mastica. Cioè, tu la vai ad accarezzare. Esatto. Beh, dunque, questa è una domanda molto più complessa tecnicamente, e gli zoologi si sono appassionati a cercare di dare una risposta, ma rimangono dei punti oscuri. Innanzitutto, i gatti fanno le fusa non solo quando noi gli grattiamo il mento, ma anche quando hanno fame e a volte anche quando sono sotto stress. Quindi a volte allora... lo fanno per esempio anche quando allattano. È un comportamento che a volte è semplicemente un segno di rilassamento e sensazioni piacevoli, ma anche di autorassicurazione. Addirittura è stata proposta una classificazione dei felidi in due grandi gruppi: quelli che fanno le fusa e quelli che ruggiscono. Il comportamento delle fusa è un comportamento abbastanza caratteristico e unico, legato ai piccoli felidi, quindi ai gatti selvatici di piccole dimensioni, mentre tutti i grandi felidi, quindi quelli appartenenti al genere pantera, quindi leone, tigre, leopardo, non fanno le fusa. Quindi, Federico. Basta. Quindi è una caratteristica abbastanza strana e particolare. In realtà si è visto che le fusa hanno questa strana particolarità, e cioè che c'è questo suono profondo che c'è sia quando inspirano che quando espirano, quindi è un suono continuo, no? Pare legato ad una particolare conformazione dell'osso ioide che hanno i piccoli felidi, oltre ad alcune altre bestie, tipo alcune genette. Però è molto... L'osso ioide, scusa, è nella gola? Sì, chiariscici. Esatto. È nella gola. Quando è ossificato riescono a fare questo suono, quando non lo è, come nei grandi felidi, non riescono a fare questo, ma possono ruggire. I nostri gatti di solito non ci ruggiscono. Ecco, però se le tigri facessero le fusa quando le gratti, questo resta un mistero, anche perché gli zoologi ci tengono a fare la loro professione. Dando l'approccio sperimentale, ti suggerirei di non provarlo. La zoologia non ce lo dirà mai. Insomma. Della sperimentazione, esatto. Va bene, grazie Piero Papic, buon anno anche a te e ci sentiamo l'anno prossimo. Auguri, al prossimo anno, a presto. Ciao. A presto, ciao. Oh, naturalmente, per sapere se per esempio una tigre fa le fuse bisogna avere una tigre. Sì, sarebbe il caso di averne tante, cioè vorremmo anche più che di una. Sì, vorremmo che non ci fosse questo problema che adesso in pochi minuti in chiusura vogliamo raccontarvi. Qui con noi stasera abbiamo invitato Isabella Pratesi, le diamo il benvenuto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Isabella. E lei è responsabile della conservazione internazionale del WWF Italia, che proprio in questi giorni ha lanciato un allarme molto importante. Sono diminuite, pensate, nell'ultimo secolo del 97%, ne sono rimaste pochissime e diciamo quasi tutte segregate in India e in Nepal. Pratesi, insomma, lanciamo un allarme. È un vero allarme, perché ormai di questi meravigliosi gattoni sono rimasti veramente pochi spiccioli, e se non ci attiviamo tutti insieme per far qualcosa, per dargli la mano, mi sa che questa generazione non vedrà vedrà la fine delle tigri e non le vedranno più le prossime generazioni. Impensabile, se ci pensiamo, impensabile. Tutti i romanzi, racconti, film nei quali abbiamo tigri sarebbero dei, dei musei, delle icone virtuali per vedere. Pazzesco, com'era fatta. Pazzesco, sì, perché sono animali poi di una meraviglia, sono animali carismatici, sono animali di una potenza. È impensabile una vita su questo pianeta senza queste meraviglie. Ecco, ma come si potrebbe fare? E soprattutto, qual è il problema? Cioè, perché sono state decimate praticamente? Sono state decimate perché purtroppo la convivenza con l'uomo non è sempre facile, e più delle volte i territori meravigliosi, le giungle, le savane, le praterie, ma anche zone umide sono state cancellate da questo pianeta, per cui non hanno più gli spazi dove vivere, e quei pochi spazi dove vivono ancora, dove potrebbero e dovrebbero essere protette, purtroppo sono bersagliati dai bracconieri. Il bracconaggio alla tigre ancora oggi è un vero e proprio business, perché drammaticamente le tigri, le parti di tigre, quindi la pelle, le ossa, il pelo, vengono utilizzati per dei meccanismi di medicina tradizionale folle, perché non hanno nessuna proprietà terapeutica, ovviamente, però c'è chi crede che possano dare potenza, che possano risolvere problemi medici, e per cui in nome di queste false speranze noi stiamo facendo scomparire questi meravigliosi felini. Ma potrebbe esserci come soluzione la creazione proprio dei parchi molto controllati, anche chiusi? Io non ho bene in mente, ma sono già dentro parchi nazionali presidiati, allora vuol dire che non li si presidia a sufficienza. Sì, gran parte dei tigri sono in aree protette. Purtroppo non si riesce mai a presidiarli abbastanza, perché questa criminalità organizzata dei bracconieri riesce a fare cose incredibili. E spesso sono paesi che non hanno abbastanza risorse, come il Nepal oppure come il Bhutan. Paesi, diciamo, sostanzialmente con problemi anche molto grandi, e questo delle tigri non riescono ad affrontarlo adeguatamente. Cosa potremmo fare per darvi una mano, insomma? Allora, passare il messaggio che dobbiamo aiutare questi animali e poi aiutare tutti quelli che aiutano i tigri. E fra questi anche il WWF, ma non siamo la sola organizzazione. Chi vuol dare una mano al WWF per il programma che abbiamo lanciato, per la campagna che abbiamo lanciato a sostegno della tigre, può collegarsi al nostro sito e adottare proprio per Natale uno di questi meravigliosi animali, perché secondo me proprio a Natale dobbiamo fare dei regali che abbiano un senso, regalare ai nostri figli, a chi vogliamo bene, qualcosa che oltre all'oggetto, al bellissimo peluche che si riceve, si porti dietro anche però un pezzetto di speranza e un messaggio di bello, un messaggio che fondamentalmente siamo responsabili di questo pianeta, di questi animali, e dobbiamo fare il possibile per aiutarli. E con i fondi ricavati, soprattutto per il progetto Tigre, insomma, pensate di avviare progetti di conservazione e anche di ripopolazione? Sì, noi siamo molto ambiziosi in questo scenario che può sembrare drammatico, ma abbiamo un programma di raddoppiare il numero dei tigri, quindi portarlo da 3.200 a 6.400 nei prossimi 10 anni, e anche attraverso la reintroduzione in luoghi che noi sappiamo essere giusti per loro, sappiamo essere protetti, e aiutando anche i governi a fare l'adeguata controllo e monitoraggio contro il bracconaggio. Allora lanciamo questo messaggio, Chiara, se sei d'accordo: guardate il vostro gatto e pensate che c'è una cugina gialla e nera più grande, molto più grande, che non sta bene. Ecco, guardate il vostro gatto e pensate alle tigri. E speriamo che il 2014 sia un buon anno anche per le tigri. Allora, anche per le tigri. Grazie Pratesi. Assolutamente sì. Buone feste anche a voi. E dopo il sangue, dopo le tigri, arriviamo a tre domande sull'acqua, ben tre. Ben tre domande, che bello rispondere alle domande degli ascoltatori, come mi piace. Ne abbiamo raggruppate tre, tutte sul tema acqua. Acqua. La prima ci arriva da un ascoltatore che pensa, ci ascolta da Valparaíso in Cile. Mm. Infatti via internet, siamo contenti, diamo il benvenuto a Diego e gli diamo anche la parola. Vorrei sapere se è vero che certi fenomeni fisici accadono in maniera diversa al nord che al sud del mondo, per esempio la direzione in cui girano le acque oppure i venti. Grazie. Per rispondere a tutto ciò che riguarda i fluidi, l'acqua, insomma la fisica del nord e il sud, di solito chiamiamo il nostro fisico di fiducia Emiliano Ricci. Quindi di nuovo benvenuto Emiliano. Buonasera a tutti, salve. Ciao Emiliano. Ti diamo sempre del tu perché tu sei divulgatore scientifico, nonché fisico. Quindi ti diamo la parola per rispondere a questa prima domanda. Andiamo un po' veloci perché oggi, guarda, il lavoro è duro, devi rispondere almeno a tre domande. Sì. È difficilissimo. Sì, allora, prima domanda. È vero che i fenomeni fisici, alcuni fenomeni fisici sono diversi, non tanto fra polo nord e polo sud, quanto fra emisfero boreale e emisfero australe. E questo è dovuto al fatto che la Terra ruota su se stessa fondamentalmente. La diversità di senso di rotazione dei venti, per esempio dei cicloni, degli uragani nell'emisfero boreale rispetto all'emisfero australe è dovuta a una forza fittizia, una forza apparente che si chiama forza di Coriolis, dal nome del fisico francese che la studiò, ed è una forza che si accompagna in tutti quei, che si trova in tutti quei casi in cui ci si muove su un oggetto rotante come appunto la Terra. La Terra ruota su se stessa e quindi trascina con sé i fluidi come le acque, come l'acqua e l'aria dell'atmosfera, e fa in modo questa forza che il senso di rotazione di alcune di questi fluidi sia diverso. Per esempio nell'emisfero boreale i cicloni, gli uragani girano in senso antiorario, mentre invece nell'emisfero australe girano in senso orario, e così anche le correnti marine. Quindi non per i venti e le correnti funziona, vale? La cosa è vera. I venti e le correnti funziona. Non è vero invece quella famosa leggenda che si tramanda di ormai da generazioni, che afferma che praticamente anche il senso di rotazione dell'acqua che si svuota dal lavandino della vasca da bagno ruota in senso opposto tra i due emisferi. Posso ricordarti un episodio personale? Con degli amici ci trovammo una volta sull'equatore, e allora si fece un buco in un secchio e si fece colare l'acqua 10 metri a nord e 10 metri a sud. Io sapevo che era una leggenda, però volevo toccare, volevi sperimentare, con... giusto? E in effetti non succede, non è vero, insomma, che improvvisamente il vortice va dall'altra parte. Assolutamente, anche perché diciamo il verso di rotazione in questi casi, nel caso del lavandino, della vasca, dipende da fattori più macroscopici come può essere la forma appunto del lavabo, la direzione, il punto di caduta del flusso d'acqua, che non necessariamente... Certo, dove è posizionato il rubinetto. Dai movimenti che uno ha dato all'acqua mentre cadeva. Quindi va giù come vuole. Da una serie di fattori che appunto per i quali la forza di Coriolis è sostanzialmente trascurabile. Perfetto, allora vabbè, Emiliano stai lì perché adesso diamo la parola a Gian Pietro. Buonasera, per favore vorrei sapere quanto pesa una goccia d'acqua, grazie. E qua la storia si complica. No, ma noi dicevamo, ma ci sono tante gocce, però è vero che in media la goccia d'acqua è quella roba lì. No. Sì, aspetta, posso svelare un segreto? Che l'ascoltatore, quando appunto ci siamo sentiti per registrare la domanda, mi ha posto proprio una differenza fondamentale, cioè quanto pesa una goccia d'acqua del lavandino e una goccia di pioggia. Quindi Emiliano, ti pregherei di essere preciso. Vabbè, ma però hanno quella dimensione lì, insomma, sappiamo. Allora, in realtà le gocce di acqua possono essere di dimensioni diverse. C'è uno standard di laboratorio che per l'acqua distillata del quale si può affermare chiaramente il peso, perché l'acqua distillata è sostanzialmente acqua pura, a differenza dell'acqua del Piovano e dell'acqua del Lavandino. E l'acqua distillata si dice, come standard di laboratorio, che 20 gocce pesano un grammo. 20 quindi gocce in realtà quindi una goccia nel senso dello standard di laboratorio pesa 50 mg sostanzialmente. Sì. Questo è nello standard. In realtà, più che il peso, si tende a dare le dimensioni in volume della goccia, perché appunto noi abbiamo gocce di piccole dimensioni, gocce di grandi dimensioni, e dipendono ovviamente dalla tensione superficiale dell'acqua che può essere mescolata con varie sostanze. Sì, comunque, ma siamo lì intorno a quel grosso modo. Tendenzialmente il volume di una goccia è alcune decine di millimetri cubi, quindi al massimo il volume massimo che è stato stabilito in laboratorio è 50 millimetri cubi, e quindi dato che la densità dell'acqua è un grammo al centimetro cubo, il risultato è un 50 milligrammi per la goccia standard. All'incirca. Certo, a meno che non sia una goccia del Lambro, che è un fiume che abbiamo qua vicino, che molto contiene densa. Circa 2 magari tonnellate di piombo, ecco, ferro, cioè minerali e allora, di varia natura. Sicuramente molto chilo, un chilo, l'ho provato io. Speriamo di no, perché sarebbe veramente velenoso. Rimaniamo in tema di gocce, perché arriva una terza domanda da Vincenzo, che dice: avrei una piccola domanda di colore, questa è una mail. Perché quando c'è un temporale o piovono goccioloni grossi nelle pozzanghere si formano delle bolle a mezza sfera? Ma non succede lo stesso fenomeno su un laghetto o dove l'acqua è più profonda? A te la parola, questa è difficilina, eh? Sì, questa è una domanda tostissima, su cui appunto non esiste nemmeno letteratura, mentre sulle altre in qualche maniera ci sono degli studi, delle considerazioni in laboratorio semplici da fare. Questa è un'osservazione interessante fatta dall'ascoltatore, che è vera, cioè, nel senso che si verifica. L'abbiamo vista tutti, certo. Sì, l'abbiamo vista tutti, e diciamo, un'ipotesi che si può fare, però la mettiamo lì come ipotesi, appunto, non da verificare, è che in realtà quando piovono goccioloni grossi, questi goccioloni grossi che vanno a finire nelle pozzanghere, sostanzialmente nella parte inferiore della goccia si portano dietro uno strato di aria. E quando questo strato di aria entra nella pozza, siccome le pozzanghere sono basse, sostanzialmente rimbalza subito e riaffiora subito in superficie tutto insieme. E siccome l'acqua piovana, quando tocca terra, si contamina anche con altri elementi, magari il detergente che viene usato per la pulizia delle strade, oppure altre sostanze di vario genere, ha una tensione superficiale più bassa, e quindi le bollicine tendono a mescolarsi tutte insieme a formare la bolla grossa, la bolla a mezza sfera. Non succede questo fenomeno nell'acqua profonda, sempre nell'ipotesi da verificare, perché appunto quando l'acqua è profonda l'aria non rimbalza, viene magari trascinata un po' più a fondo dalla goccia d'acqua, e siccome il lago, l'acqua di mare e cose di questo tipo hanno comunque una tensione superficiale che è quella dell'acqua, perché sono meno inquinati della pozzanghera sul terreno, formano bollicine più piccole che affiorano in zone più diverse, quindi tendono a non rimescolare, a rimettersi insieme per formare la bolla più grossa. Questa è la tua ipotesi. Beh, certo, qui non c'è ricerca, lì al CERN si sono buttati sul bosone. Ma secondo te, no, non prendi un Nobel per questa roba qua. Un Ig Nobel, se vuoi. Un Ig Nobel. Ig Nobel può darsi, sì, si potrebbe vincere a fare degli studi sperimentali sulle gocce, sulle dimensioni delle mezze sfere di bolle nelle pozzanghere. In realtà però sulle bolle, Emiliano, tu forse lo sai meglio di me, ci sono tantissime ricerche. Mi sembra che addirittura una recentissima assemblea annuale della comunità scientifica americana ha dedicato un'intera sessione alle bolle, della birra. Assolutamente, la formazione delle bolle è una, diciamo, uno studio, un argomento interessantissimo, perché in qualche maniera riguarda lo studio dei flussi, dei fluidi, per esempio nelle tubature, o anche negli impianti di raffreddamento, di centrali, e quindi la formazione delle bolle è pericolosissima, per esempio, perché può portare a una maggiore usura, a una maggiore, a un maggiore consumo del materiale in cui è conservato è fatto fluire il fluido. Quindi lo studio delle circostanze, delle condizioni fisiche in cui si formano le bolle è un argomento di fluidodinamica molto importante. Anche per il corpo umano, no? Anche il problema della circolazione. Cioè, sì, tra l'altro in modo singolare, noi ne abbiamo parlato qua qualche tempo fa, credo più di un anno fa, c'è un interessante trasferimento dalla fluidodinamica del corpo umano e quindi della circolazione del sangue nel nostro corpo a quella che è la fluidodinamica che poi può essere addirittura applicata nello studio per esempio dei venti e di come devono essere le barche da vela da competizione. C'è un gruppo di Milano del Politecnico, il MOX, che ha lavorato su queste cose e sono partiti da per esempio nella fluidodinamica e nel come funziona lo scafo. Il fatto che si formino più o meno bolle intorno, bollicine, vuol dire avere delle condizioni di attrito e quindi attrito maggiore, certo. Infatti per esempio tanto per fare il caso appunto del nuoto, i famosi costumi dei super nuotatori erano costumi che riducevano l'attrito impedendo la formazione delle bolle sostanzialmente, certo. E quindi quello che le maggiori velocità si raggiungevano riducendo l'attrito proprio diminuendo il numero di bolle che si formano nel momento in cui il corpo è a contatto. E anche qui, se si facesse magari più ricerca, ma certo è meglio dedicarsi forse ad altro, si scoprirebbe che certi corpi sono più bollosi di altri, no? La forma di un certo corpo del nuotatore crea più o meno bolle, ma senz'altro sarà così, solo che chissà che perché la testa a guardare. Sì, infatti. Anche perché poi dopo uno è fatto in quel modo e quindi non può farci nulla, se ne farebbe una ragione. Però che tutti si depilano, perché ovviamente la presenza di peli è una fonte di formazione di bolle d'aria spaventosa. Va bene, grazie Emiliano, davvero questa volta ti sei superato, insomma. Ma abbiamo sfruttato. Abbiamo anche un'ipotesi scientifica che abbiamo formulato qui in onda con te. Se c'è qualche ascoltatore la volesse verificare, va bene, apriamo il dibattito. Va bene, grazie Emiliano e buone feste. Grazie, ciao, voi, buon lavoro. Grazie. Stiamo partendo con le ultime domande. Sì, purtroppo, vabbè. Ce ne sono tantissime, però ne abbiamo fatte 8, 9, non mi ricordo, non le ho contate. Adesso tocca al gruppo, diciamo così, alla macroarea dell'evoluzione. Ci sono arrivate un paio di domande, quindi cercheremo di esaurire anche queste. Direi di passare subito alla prima e dare la parola a Luigi. A cosa servono le unghie, e in special modo quelle dei piedi? Grazie. Te l'hai richiesto anche tu che cosa servissero le unghie dei piedi? Sì, ho cercato risposte, trovandole. Perché per le mani tu dici per metterci sullo smalto, ma esatto. Perché dimentichi la tua professionalità di giornalista di scienza e viene fuori la tua femminilità. No, non credo che dal punto di vista evoluzionista la risposta sia per metterci lo smalto. Credo di no, ma chiediamolo a lui, al nostro evoluzionista di fiducia, Telmo Pievani, benvenuto e bentornato. Eccomi a voi. Ecco Telmo, le unghie delle mani per metterci lo smalto, quelle dei piedi? Ma le unghie delle mani per metterci lo smalto assomiglia moltissimo alla domanda che nel Candide di Voltaire il Candide pone al suo precettore, il quale gli risponde: ma sai, ci sono tutte le cose in natura servono per una qualche funzione, il naso serve chiaramente per appoggiarci sopra gli occhiali. Certo. In realtà questa risposta ci attrae molto perché pensiamo che tutto debba servire a qualcosa. Le unghie sono un esempio molto bello di questo, perché con ogni probabilità sono invece un tratto, una caratteristica anche umana, ma che hanno tantissimi altri animali, soprattutto quelli imparentati con noi strettamente come i primati. Una volta avevano una funzione arboricola per l'arrampicamento, per la difesa e per proteggere la punta delle dita. Poi nell'uomo in particolare si sono trasformate, perché non sono più ricurve come in molti primati, sono diventati quasi piatte. E dire che cosa servono oggi è difficile, perché in realtà hanno perso gran parte della loro funzione. E bisogna stare attenti, per esempio a volte si dice che servono per proteggere la punta delle dita, che altrimenti non sarebbe troppo niente, molle. Cioè. Beh, per sollevare il lembo dello scotch, scusa, voi cosa potreste usare? Per la presa di precisione, esatto. Però bisogna stare attenti, perché in realtà possiamo fare la presa di precisione anche con altre soluzioni che non prevedono le unghie, in teoria e in natura. Quindi forse è meglio dire che è un retaggio della nostra storia evolutiva e che noi oggi abbiamo imparato ad usarle per delle funzioni completamente diverse da quelle per le quali si sono evolute. E qui sta un po' il segreto della nostra plasticità umana. Ecco, però, Telmo, questo è, certamente se andiamo nei felini, nelle tigri, nei leoni, lì l'unghia ha anche una bella funzione di tipo aggressivo. Però, per esempio, mi domandavo per gli elefanti che hanno le unghie, effettivamente anche lì probabilmente un resto fossile, che cosa se ne fanno? Lo smaltano, lo mettono? Sì, esatto, anche in quel caso può darsi che rientrino in una dinamica più generale della postura e della struttura dell'arto, ma non è detto che abbiano proprio loro nello specifico una funzione che le mantiene, non c'è dubbio. Quindi di molte cose noi dobbiamo dire la ragione non c'è più, è solo storica. Ma tra l'altro mi viene da pensare, forse anche nell'evoluzione umana potevano servire come difesa? Sono servite senz'altro. Forse come difesa. L'aspetto della difesa è rimasto come funzione per molto tempo. L'evoluzione però è piena di inerzie, nel senso che una struttura poi cambia nel tempo e se non è troppo costosa, noi sappiamo che la selezione naturale e gli altri fattori evolutivi la mantengono, non è necessario che debba scomparire. Quindi possiamo anche avere tante caratteristiche che non sono più necessarie e anzi a volte ci danno anche un po' fastidio, come sanno tutti quelli che soffrono troppo di mal di schiena o di dolore dovuto al dente del giudizio, all'appendice e quant'altro. E d'altronde il fatto che restino è fondamentale, perché o tu hai sviluppato dal punto di vista evoluzionistico un'alternativa, qualcosa che sostituisce l'unghia, se no non averle sarebbe un bel guaio. Ci abbiamo la parte finale del dito sensibilissima a qualunque cosa. Esattamente, questo però richiede un cambiamento evolutivo forte, costoso, impegnativo, che richiede molte mutazioni, quindi l'evoluzione, che spesso è economica, non è detto che lo faccia tutte le volte. Non è proprio un ingegnere, diciamo. Se c'è qualcosa che non va poi così male, se lo tiene. Pensa com'è straordinario il regno animale. Ci sono tutta una categoria, gli ungulati di animali, per cui l'unghia è fondamentale, addirittura si è trasformata, e senza della quale non potrebbero camminare. Non so, pensiamo ai cinghiali piuttosto che ai cervi, ai camosci, no? Esattamente, in quel caso c'è stata una cooptazione funzionale, si dice, e hanno preso una nuova funzione legata alla postura, che poi è legata ai particolari tipi di terreno in cui si sono adattati questi animali, e comincia tutta un'altra storia in cui diventa un tratto nuovo. Non sarebbe nemmeno più da chiamare unghia in quel caso, è un altro tratto. Strumento di... Orbene, su questa linea, forse con dei tratti appunto anche comuni, arriva l'altra domanda dal nostro ascoltatore Dario. Gli uomini fanno pensare a un passato in cui venivano usati per l'allattamento, ma io non ho mai sentito una cosa del genere. Da dove arrivano? Ecco, Telmo, qui il problema si complica, nel senso che i capezzoli hanno proprio una funzione, anche attuale direi, negli esseri umani, però negli uomini in effetti hanno perso sempre questa funzione di cui dicevi prima? Sì, è imparentato col problema di prima, ma leggermente diverso, perché qui pensiamo che non l'abbiano mai avuta. È una di quelle caratteristiche che in natura si chiamano pennacchi, spender, cioè una ridondanza. E pensate che già Darwin si era posto questo problema, è stato una delle prime questioni che si è posto ragionando da naturalista. Nei taccuini, quelli che lui scrive proprio da giovane, non aveva ancora 30 anni, si chiede: ma se c'è un progettista intelligente che ha fatto tutto per una funzione, per un fine, che ci stanno a fare i capezzoli nei maschi? Ecco. E ci ha pensato tutta la vita e poi ha dato una risposta un po' speculativa al suo tempo, che poi però forse non è così sbagliata. Lui disse: probabilmente ci sono perché sono un rispecchiamento di quelli femminili, cioè nelle prime fasi dello sviluppo li abbiamo tutti, maschi e femmine, e poi soltanto con lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari nel corso della crescita, soltanto le femmine, attraverso meccanismi ormonali che conosciamo, per loro diventa proprio un carattere sessuale fondamentale, mentre nei maschi no, rimangono praticamente disattivati. lui la butta lì così, in realtà non è poi del tutto sbagliato, noi pensiamo che siano proprio un residuo dello sviluppo, perché lo sviluppo funziona per differenziazione, quindi nelle prime fasi c'è poca differenziazione e poi nel corso del tempo c'è questa divisione dei ruoli, quindi un tratto nelle femmine acquisisce una funzione fondamentale e permane anche questo come un'inerzia invece nell'altro genere, nel caso nostro maschile. Abbiamo qualcos'altro? Infatti anch'io questo concetto dei pennacchi mi piace tantissimo. Ci fai qualche altro esempio? No, non mi pare che c'è qualcos'altro oltre... No, questo è il caso più emblematico perché ha un aspetto, diciamo, fisiologico. Qualcuno pensa, per analogia, però qua bisogna stare un po' più attenti, che ci siano anche delle altre caratteristiche comuni dei sessi, legate per esempio alla struttura del cervello e così via, che poi si differenziano e si specializzano un po' di più nelle femmine per certi aspetti e nei maschi per altri. Quindi queste, diciamo, sono tutte quelle indagini che ci dicono dove siamo diversi fisiologicamente tra maschi e femmine, magari non soltanto per gli aspetti sessuali ma anche per altri, però bisogna stare attenti lì perché poi è chiaro che non bisogna generalizzare, è un terreno difficilissimo, una parte di cervello diversa da quella dei maschi, sì. Perché in realtà la differenziazione riguarda principalmente l'apparato riproduttivo e i caratteri secondari. E negli altri animali? Negli altri animali succede la stessa cosa sostanzialmente, anche qui abbiamo una differenziazione nel corso dello sviluppo che fa permanere alcune strutture in un sesso anziché nell'altro. Questo per quanto riguarda gli animali imparentati con noi. Se ci allontaniamo un po' di più invece le cose diventano ancora più interessanti, perché i pesci fanno cose fantastiche, per esempio cambiano sesso all'occorrenza. Ecco, questa cosa qui. Sole. Ma senti, sbaglio o mi viene in mente che addirittura le cernie, che quindi un pesce che conosciamo bene, hanno questa capacità a un certo punto di cambiare sesso? Sì, sì, in base alle relazioni ecologiche e alla struttura della popolazione, all'habitat, ai rapporti sociali, esatto. Beh, questo è fantastico. È un fatto straordinario. Piacerebbe. Il sesso diventa funzionale anche all'ecologia e ai rapporti sociali. Tu fai un anno in un modo, un anno in un altro. Beh, non è male. Estremamente divertente. Sì. Grazie mille, Telmo. Buon anno anche a te, allora. Anche a voi. Ci sentiamo l'anno prossimo. A presto. Ciao, arrivederci. Certo che per chi si interessa di scienza fare previsioni, dire buon anno, auguri, su Federico, non fare buon anno, sì, buon anno per forza, come possiamo nell'ultima puntata dell'anno non augurare un buonissimo anno che sta per iniziare agli ascoltatori? Poi tra 7 giorni saremo qui e poi, come si dice tante volte in queste ultime ore, peggio del 2013, no? Dovrebbe essere banale che il 2014. Ah, vuoi finire con un pensiero positivo? Va bene. Sì, è stato un anno difficile, ma ci auguriamo che il 2014 sia un po' migliore. No, io dico splendido, basta. Buon anno. Va bene, buon anno a tutti.